Fontana a vida. Io che grazie a Dio son 12 anni che ci credo. Il pop final mi do il rap a sacco cuore è vero. Io che me ne foto di chi sono e di chi ero. Che sono contento solo, obiettivo e sincero. Son soltanto io ora sopra questo palco. Ti vedo scontento ma sto un gradino più in alto. Io sto felice, tranquillo, senza rimpianto. Tu stai a solare, torni a scuola sotto il banco. Sai, sono scomparso per fare parlare la massa. Ma non ho mai venduto il mio culo stile bagassa. Da questo giro la musica suona grassa. Suo defuntano reda solo batte cassa. E c'è chi la ammazza e c'è chi la smazza. Ma il rap originale a quarto è Fontana di razza. E c'è a chi li scazza, pure se non ti piaccia fa lo stesso. Fontana nello stereo Asia. Questo è per chi ha sempre pappato Fontana. Pure per chi si è venduto come puttana. È dedicato al mio quartiere sacro cuore, dove sono cresciuto nelle piazze del rione. Questo è per chi pompera sempre Fontana. Per chi mi è vicino, chi mi stima e chi mi ama. Ad ogni cugi che la fa di marijuana. Mentre nello stereo ascolti il vero rap Fontana. Cresti competizioni, si sgammara si impostori. Due intendi mero di atteso su Zonu che vincitori. Che ha fatto sa tradizioni, gruppo rap a sacro cuore. Chi ne diverso di adere, ma no esti servidori. Commenti sa prima de inguni, si sempre in azioni. Scelti materia prima, io ho visto in sperimentazioni. Basta scelti a salena e non ci voli risavozzoni. Vuone dessi sul rapper che pro potenti in surrioni. Stora sa preparazioni, rapper ragga colazioni. Musica salda scoppetta con bidure in sugascioni. Del nipis in dotazioni, 05 de giarroni. Una gricca satanara, gasterri ribedigoni. Con tavuru su soli, su clima e ambientazioni. Povezza che gusto sono, de vano non bucciconi. Ci voli gari gari al rispetto e convinzioni. Nara di un disesi, gugi, de sacru goli. Questo è per chi ha sempre pappato Fontana. Pure per chi si è venduto come puttana. Dedicato al mio quartiere sacro cuore, dove sono cresciuto nelle piazze del rione. Questo è per chi pompera sempre Fontana. Per chi mi è vicino, chi mi stima e chi mi ama. Ad ogni cugi che la fa di marijuana. Mentre nello stereo ascolti il vero rap Fontana. Uno, per questa è la mia crew città del sole. Due, per su ging, spari a gada Corleone. Tre, per pignegna, chicche, ale e piedone. Quattro, per chi che va negli amici di sacro cuore. 5 per dentro terra melo, Tino Cesaria. 6 per chi ci vive, chi passa dalla mia via. 7 per ogni cugi che sta dalla mia. 8 per mare e fumo che riposino in cielo e sia. Questo è per chi ha sempre pappato Fontana. Pure per chi si è venduto come puttana. Dedicato al mio quartiere sacro cuore, dove sono cresciuto nelle piazze del rione. Questo è per chi pompera sempre Fontana. Per chi mi è vicino, chi mi stima e chi mi ama. Ogni cugi che la fa di marijuana. Mentre nello stereo ascolti il vero rap Fontana.